Avventurieri, il fuoco tiene lontane le creature dell'oscurità, ma non tutti i pericoli temono le fiamme. Per questa notte vi conviene organizzare dei turni di guardia. Chi di voi prenderà il primo turno?